Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Licia Mattioli, 49 anni, nata a Napoli, vissuta a Torino, sposata, due figli, avvocato di formazione, imprenditrice, creatrice di gioielli per passione. Nel 95 con il padre acquista l'antica ditta Marchisio, il più antico laboratorio orafo artigianale di Torino, lo rivoluziona diventando amministratore delegato. Nel 2013 vende l'azienda, tiene il marchio, fonda la Mattioli, marchio di gioielli, portandola a 27 milioni di fatturato, 100 dipendenti diretti, 200 punti di vendita in tutto il mondo, vicepresidente di Confindustria con deleghe all'internazionalizzazione, prima donna presidente dell'Unione Industriale di Torino e di Federografi. Appassionata d'arte, ama passeggiare sotto i portici di Torino e i viaggi in Cile. Il padre di lei dice come un giocoliere che riesce a far volare in aria 10 sfere contemporaneamente, ma per i suoi colleghi di Federografi è il presidente soldato. Ecco, Licia Mattioli, buongiorno. Presidente soldato perché? Perché ho portato avanti le battaglie indefessamente della mia categoria e al fine mandato mi hanno regalato una spada su cui c'era scritto per tutte le nostre battaglie vinte insieme. Senta, qualche giorno fa Libero scriveva: quando l'erede è maschio ma la prescelta è femmina, punto interrogativo, puntini puntini, ancora un dramma, sa? No, io credo che oggi non faccia molta differenza il genere per gli eredi. Si può fare di più, ma credo che non sia come una volta. Lei era la prescelta perché era unica. Senta, ma a chi piacevano di più i gioielli? A lei o a suo padre? Sicuramente a me, perché mio padre dice sempre che fare fiammiferi o gioielli è la stessa cosa. Ah, per lei no? No, per me assolutamente no. Senta, oggi in Italia un quinto delle imprenditrici femmine ha ricevuto l'attività dal padre. È ancora poco però. Sì, ma io di nuovo credo che non sia un problema di numeri, infatti, in questo senso. Il problema secondo me è la conciliazione per le donne oggi. La conciliazione lavoro, mamma, con famiglia, eccetera. Ma c'è ancora una questione aperta sul genere oppure no? Se riguardo le imprese, no. Meno che in altri campi. Sicuramente c'è ancora qualche padre padrone, c'è ancora, ma lo è anche per il figlio maschio, voglio dire. Sì. Indipendentemente dalla categoria. Forse anche di più per il figlio maschio. Sì. Senta, l'8 marzo, in occasione dello sciopero delle donne contro la violenza, lei ha detto: non è nelle aziende che si risolve il problema, la questione è politica e di mentalità. Cioè, cosa voleva dire? Che fare sciopero in azienda per un motivo così nobile non aveva senso. Bisogna segnalare queste problematiche che sono terribili, ma non è quello il modo. Quindi hanno sbagliato le donne che hanno scioperato in azienda? Secondo me non è servito a niente. Niente. Senta, oltre al tema della violenza, però quella della disparità economica, dei trattamenti economici tra uomo e donna resta. Che fare? Bisogna, come tutti i temi economici, affrontarli in maniera, come dire, totalitaria, però non è un problema semplice, perché non riguarda solo quello, riguarda anche i giovani laureati, per esempio, che hanno stipendi troppo bassi rispetto agli altri paesi. E come si può migliorare la situazione? Bisognerebbe, credo, porsi un problema di sviluppo anche delle aziende per poter sviluppare anche il tipo di retribuzioni che ci sono dietro, perché poi c'è anche un problema di competitività delle aziende, no? Ecco, dottoressa Mattioli, ma un capo donna è ancora un tabù? No, io non lo credo. Guardi, io ho sempre lavorato con tanti uomini, perché stando tanto in reparto in azienda ero con tanti uomini. L'unica cosa che si perde è un po' di femminilità, perché fai un po' l'uomo. Ah, si diventa un po' uomini. Un po' uomini. E lei quanti ne ha sotto di sé di uomini? Noi abbiamo adesso 100 persone e sarà il 60% uomini. Ah, 60% uomini. Tanti. Sono tanti perché nel lavoro manuale dell'oreficeria ci sono tanti uomini. In alcuni settori soprattutto, per esempio l'incassatura è quasi tutta maschile, come la pulitura è femminile peraltro. Senta, il 9 maggio a Milano si è tenuto un incontro organizzato da lei, da Confindustria, dal titolo Esportare la dolce vita, il potenziale del bello, del ben fatto italiano nei mercati avanzati. Ecco, quant'è l'export italiano verso quei mercati? L'esport italiano verso quei mercati è ancora molto alto, è la più parte del nostro export verso l'estra Europa, e anche in Europa è molto alto nei paesi più avanzati. Quello che abbiamo visto è che facendo un conto molto approssimativo saranno circa 20 miliardi il potenziale ancora inespresso dal mercato americano. E perché inespresso? Inespresso perché le aziende non hanno prodotto, o non c'è la rete, o non c'è la modalità per aggredire il mercato? Allora, le aziende non abbiamo abbiamo in America una rete commerciale come hanno altri stati, altri paesi. Vi faccio un esempio: i department store, quindi le strutture atte a fare, come dire, vendita sui banconi, noi non le abbiamo, le hanno i tedeschi, le hanno i francesi, ma l'Italia non le ha. Ma per esempio no, che ne so, le ambasciate eccetera fanno una funzione di supplenza, di organizzazione, oppure non servono a niente? Allora guardi, questo è molto cambiato negli ultimi 3 anni. Io devo dire, ho trovato un paese diverso, stiamo facendo squadra, e le ambasciate, che erano molto lontane dal mondo imprenditoriale una volta, ora sono invece sul pezzo e stanno facendo veramente gli ambasciatori. Quindi vi in senso tecnico moltissimo, vi oggi supportano. Moltissimo. Senta, 59 miliardi di prodotti che oggi sono divisi come di questo export tra cibo, gioielli, moda? Guardi, sono abbastanza equivalenti, sono tutte piccole quote di un grande numero. Però possiamo fare molto di più, perché i nostri competitor fanno di più. Senta, lei cosa farebbe subito per fare di più, oltre agli store? Ma innanzitutto stiamo facendo due cose molto importanti: usando i department store americani, e quindi facendo accordi con i grandi department store per la promozione sul luogo di questo. E poi stiamo cercando di usare internet, in cui l'Italia è molto indietro, ma noi anche come imprenditori siamo molto in ritardo. Indietro. Ma l'America di Trump adesso, con i suoi balzelli minacciati o non minacciati, è ancora un mercato da conquistare per le imprese italiane o no? È più difficile? Ma guarda, sarà più difficile? Che Trump sia un protezionista è un fatto, che però lui abbia tirato fuori delle cose che già portava avanti Obama è un altro. Il discorso della carne, dei tassi sulla carne, è un discorso avanti a 4 anni. Sì. Quindi in realtà nulla è cambiato per ora. Di fatto. È vero che, avendo un surplus di 28 miliardi Italia-America, questo probabilmente avrà forse degli impatti. Senta, ma è vero, come ha detto Calenda, che ci sono 60.000 aziende italiane pronte a conquistare i mercati esteri? Sicuramente ci sono? Sicuramente sì, il problema è che... O è uno slogan? No, è che noi esportiamo troppo poco. Noi abbiamo 235.000 aziende esportatrici, di cui la più della metà esportano meno di 75.000 euro. Può migliorare. Senta però cosa ci ha detto Guerra sul futuro delle piccole imprese nel mondo globalizzato. Il tema vero è che quando noi parliamo di medie e piccole aziende, parliamo, rispetto alla media europea, di micro aziende. Le micro aziende purtroppo in questo mondo non hanno più significato. Tornerà a fare l'avvocato se capita quello che dice Guerra? No, io sono convinta che Guerra abbia ragione. Per le micro aziende c'è poco spazio, ma quello che dobbiamo fare non è pensare di non avere più mercato, è pensare di farle mettere insieme e farle crescere. Quindi fare rete, fare conglomerati, fare cosa? Fare in modo che i distretti lavorino più insieme. Cioè le strategie per mettere insieme piccole e medie imprese, quali sono? Uno, sicuramente la rete, anche se non ha funzionato bene come avrebbe potuto. Poi bisogna lavorare per distretti. E poi bisogna fare, secondo me, creare incentivi per fare società tra le aziende. Gli incentivi della rete non sono bastati, perché sono incentivi sugli utili futuri. Quindi, invece bisogna fare incentivi, secondo me, di sgravi fiscali sul presente. Sul presente. Ma il rinascimento industriale, di cui ha parlato il presidente di Confindustria Boccia proprio a Torino, è che immaginava che partisse da Torino, c'è stato? Ma teniamo presente che, rispetto alla crisi in cui abbiamo perso un quarto delle aziende italiane, sicuramente le aziende sono ripartite, quelle che ci sono più forti. È chiaro che però abbiamo perso tanti punti in questi anni, quindi dobbiamo ricominciare a riguadagnarli. E in che settori c'è stata la ripartenza migliore? Ma è stato in tanti settori. Il Made in Italy sicuramente, l'automotive ha avuto un grande movimento in avanti, l'aerospaziale sta funzionando molto bene, i settori in cui siamo più bravi, in cui siamo più tecnologicamente avanzati. Senta, ma la sindaca di Torino, Grillina Appendino, è un'interlocutrice positiva con questa nuova Torino? Assolutamente sì, perché è una Grillina sui generis, direi. Ma questa nuova Torino che caratteristiche ha? Come la definirebbe? Io definirei la Torino di sempre, nel senso che è una Torino che fa squadra, e questo è un dato caratteristico incredibile che manca nel resto d'Italia. Ci fosse più Torino in Italia, secondo me andremo tutti molto meglio, perché si lavora per il bene comune e non contro. Ma dopo un anno che voto dà l'Appendino? Ma direi che le potrei dare un 7. Ma oggi Torino è una città ancora che definirebbe industriale o più articolata? È una città ancora molto industriale, perché ha un DNA che non le si può cambiare, però sta diventando anche molto turistica. Ci stupiamo di vedere delle code al Museo Egizio di lunghezze incredibili. Un bel lavoro al Museo Egizio. Abbiamo anche un parco di oggetti al Museo Egizio incredibile, secondo il mondo. E poi è più bella la città. Sì, è migliorata moltissimo, è molto meno grigia. Apparentemente anche il tempo è cambiato. Senta, nel 2014 lei, davanti a Montecitorio con altri imprenditori, gridava: amo l'Italia, ma basta. Ma è servito qualcosa andare lì a gridare amo l'Italia, ma basta? Rappresentiamo 6.000 imprese piemontesi? Io credo di sì, perché anche se non c'era il governo, perché pensi che era il giorno in cui era caduto Letta e stava arrivando Renzi. Cioè, avete avuto un tempismo eccezionale. Eccezionale, ma in realtà è servito perché era il momento l'apice della crisi, in cui a nessuno interessava più delle aziende. Beh, il nuovo governo e le aziende l'ha messa al centro, sì, quindi forse ci hanno ascoltato. Quindi bravo Renzi. Da questo punto di vista è stato molto bravo, perché hanno finalmente ritrovato il senso che questo paese senza le aziende non va da nessuna parte. Senta, dottoressa Mattioli, ma questa ripresa ci sarà? È un'eterna chimera? Che cosa arriverà? Che ne sappiamo? Dobbiamo lavorare molto, secondo me, sul valore aggiunto che noi possiamo dare come impresa, nel senso che le imprese non possono più fare prodotto di massa. Questo lo fa tutto il mondo, non c'è paese dove io vada all'estero che non mi dica vogliamo quote della produzione di massa. Noi dobbiamo fare robe diverse, siamo bravi a farle, dobbiamo lavorarci e ci sarà ripresa. Però gli do dei dati di Confindustria, ci dicono che dal 2000 al 2015 in Spagna il PIL è aumentato del 23%, in Francia del 18,5%, in Germania del 18,2%, in Italia è calato dello 0,5%. Cioè noi in pratica abbiamo perso 15 anni, insomma se si è fatto qualcosa finora si è fatto male. Il problema qui è che noi non abbiamo fatto riforme per 15 anni. La Francia, la Spagna ha fatto delle riforme incredibili e il PIL è aumentato. La Germania, se non ci avesse avuto Schröder, a questo anno non sarebbe lì. Noi abbiamo cominciato a farle e poi le abbiamo di nuovo stoppate. E devo dire che queste riforme che abbiamo cominciato a fare negli ultimi 3 anni all'estero hanno avuto una forza incredibile, perché si parlava di un'Italia diversa. E cominciavano a ritornare gli investitori. Senta, ma quindi 3 anni di Renzi sono stati un'occasione che adesso risulta un'occasione persa da riprendere? Sì, secondo me sì, perché qualunque sia il partito che lo gestisce, se ci sono delle riforme corrette per il paese vanno fatte e vanno portate avanti. Questo è una cosa importantissima. Ma in che cosa le è piaciuto Renzi? Nel fatto che ha rimesso al centro le imprese, ha capito che il vero valore del paese è lì. Noi non abbiamo altro se non le nostre teste e i nostri imprenditori. È un po' il sole. Senta, ma che cosa ha sbagliato invece secondo lei? Si è isolato troppo, nell'ultimo periodo si è sentito probabilmente insicuro, non lo so, però si è isolato e questo non ha giovato, perché tu devi avere una squadra che lui ha avuto all'inizio. Senta, il ministro Calenda dice che è meglio puntare su misure che rendono le aziende più competitive, come sta dicendo lei, invece che sugli 80 euro. Lei è d'accordo? Sì, anche perché cosa sono serviti gli 80 euro? Ah, lo chiedo lei, sono serviti? Secondo me no. Non hanno cambiato la vita di nessuno, purtroppo, devo dire. Senta, Confindustria si è schierata con Renzi sul referendum. Lei ha condiviso la scelta? Guardi, è stata una scelta che abbiamo fatto all'unanimità di un consiglio generale e io sono molto d'accordo, perché noi di nuovo non era un discorso politico, ma era un discorso di sopravvivenza delle aziende. Per continuare le riforme. Le riforme, sì. Senta, delle colpe dei politici si parla sempre, di quelle degli imprenditori non si parla quasi mai. E se l'economia italiana invece è finita nella palude, si dovrà riproverare qualcosa anche gli imprenditori. Sicuramente non tutti gli imprenditori sono dei santi, però secondo me si parla invece troppo poco di quante cose fanno positive. Guardi, il welfare che fanno le imprese è importantissimo e nessuno lo racconta mai, si racconta solo di quelli poco per bene e questo non va bene. Il welfare in che senso? Nel senso che nelle aziende si fa veramente squadra e famiglia. Le aziende che vanno bene hanno i lavoratori che stanno bene in quelle aziende, che per i quali le aziende sono la loro famiglia e la loro casa. E non le dico nella mia esperienza di 20 anni di azienda quanto i nostri lavoratori hanno aiutato l'azienda a crescere e a migliorare. Pensi, quando abbiamo venduto, alcuni di loro mi hanno detto: lei ci ha aiutato nei momenti di bisogno, adesso veniamo noi con lei che ha bisogno di noi. E sono venuti. E sono venuti, lasciando un gruppo importante come quello che ci comprava. Senta, lei basta, l'ha detto, ma non l'ha fatto. Nel 2000 ha fondato appunto la Mattioli, che nel 2013 poi, no, era già SPA, insomma, vuole andare in borsa? Assolutamente no, ma voglio continuare a fare impresa. Perché non vuole andare in borsa? Perché secondo me bisogna andare in borsa quando hai un certo tipo di obiettivi. Noi in questo momento la crescita possiamo farla ancora per conto nostro e quindi cresciamo ancora? Secondo il nostro passo. Sì, non siamo ancora così grandi da dover andare in borsa per crescere. Senta, la sua passione per i gioielli, ho letto che inizia da bambina, quando a 15 anni andava a frugare tra le perline di un negozio a Torino, però poi ha studiato legge, ma chi è che era? Papà e mamma che voleva che facesse l'avvocato? No, mamma, perché è notaio e voleva che facessi notaio. Ah, ecco, quindi... E invece no. E invece no, perché invece quando sono entrata in azienda, la mia passione e il mio cuore era lì. Non capivo quindi più niente. Ha vinto il papà. Ha vinto papà. Alla grande proprio. Ha vinto papà alla grande. Senta, ha studiato sui gioielli? Io sì, dopo aver finito di fare quello che stavo facendo, quindi aver fatto la pratica da notaio e da avvocato, aver fatto il concorso avvocato, averlo passato e averlo messo da parte per dimostrare al mondo e a me stessa in primis che non era una scelta di comodo. Soprattutto alla mamma? A tutti dire, ma anche a me, che non era una scelta di comodo, ho cominciato a fare, ho fatto un corso di gemologia, ho fatto un corso di gestione di azienda e dopodiché mi sono occupata dall'interno di capire come si facessero i gioielli. Mi sono seduta vicino agli orafi per capire tutte le fasi del processo, mi sono andata a studiare gli archi. È un lavoro meraviglioso. Perché è un lavoro artigianale e seriale, industriale insieme. È il classico connubio italiano, dove tu metti insieme l'artigianato bellissimo, di qualità certo, di Benvenuto Cellini, con le tecnologie più moderne. Pensi che noi usiamo le stampanti laser da 10 anni. E chi gli disegna i suoi gioielli? Abbiamo un team di ragazzi giovani, io ho tantissime idee, sono, infatti mi dicono sempre adesso non pensi più tanto perché non abbiamo tempo, però un team di ragazzi giovani che poi realizzano, perché io non so disegnare. A tutti non sai disegnare, ma sai immaginare i gioielli? Soprattutto nei viaggi notturni in aereo, che faccio spesso, ho fatto 30 paesi negli ultimi 2 anni. Ho avuto tempo. Lì sogna gioielli? E lì sogna gioielli, nella silenzio della cabina dell'aereo. Senta, ma le pietre preziose da dove arrivano? Arrivano tutte da paesi assolutamente controllati, quindi per esempio i brillanti sono Kimberly Free. Noi abbiamo molto questo senso del problema etico delle aziende. Siamo certificati con una certificazione che abbiamo solo in 37 in Italia nel mio settore, che si chiama Chain of Custody. Cioè che significa che catena voi... di custodia, cioè noi controlliamo tutto il processo della produzione del gioiello a partire dalla materia prima. Cioè alla materia prima, all'inizio della materia prima non c'è questo sfruttamento bestiale di esseri umani? Non c'è lo sfruttamento di esseri umani, perché l'oro arriva da fonti certificate, i brillanti non arrivano da zone di guerra e via dicendo. Senta, chi le sceglie? Le sceglie lei? Anche, ma non solo, anche tanti miei collaboratori. Sì. È un lavoro di squadra. Sì. È una scelta difficile? Difficile, non lo so, bella però, è affascinante. Ogni pietra ha una vita diversa. Ha una sua storia. Senta, Marilyn cantava: i diamanti sono i migliori amici delle donne. È sempre così? Sì, ma secondo me l'oro è ancora più amico delle donne. Ah sì? Sì, perché questo non si dice mai, secondo me è uno sbaglio. Quando lei ha bisogno, l'oro c'è sempre. Lo mettono sulla bilancia e vale quello che vale. Certo. I brillanti piccoli non glieli considera nessuno. No, è vero. Quindi mi ricrederei sul fatto. Cioè, Senta, oltre a essere comunque, diciamo, i migliori amici delle donne, sono tornati anche... Quindi lei dice come bene rifugio invece è meglio l'oro dei diamanti. Assolutamente, sì. Bisognerebbe farlo capire alle persone. Magari l'hanno capito adesso che nell'ultimo periodo della crisi hanno venduto tantissimo metallo. Senta, ma un gioiello lo comprano di più gli uomini per regalarlo alle donne o ormai le donne se li regalano da soli perché alla pari... Secondo me dividerei l'effetto della parità. Il gioiello in due categorie. Il gioiello occasione, che lo regalano sicuramente gli uomini per santificare una certa occasione. E invece il gioiello, quello che io definisco prêt-à-porter, cioè quello che sostituisce l'accessorio di lusso, la borsa, la scarpa, quello se lo regala tutta la vita la donna. Tutta la vita la donna. Senta, le società controllate dalle famiglie, quotate in Piazza Affari, oggi sono il 61%. È un punto di forza o di debolezza? Non saprei dire se sia di forza o di debolezza, di fatto è un fatto molto italiano. È reale, infatti, la famiglia, l'azienda familiare. Però senta cosa mi ha detto Ferrero di Venchi riguardo le imprese familiari. È vero che nella sua azienda è vietato per statuto assumere consanguinei? Allora, più che per statuto, è un codice etico che ci siamo dati ed è vietato ai dirigenti, consigli di amministrazione e agli azionisti. Non è vietato, diciamo, poi per tutto il resto della... Quindi se uno dei suoi 3 figli domani le chiedesse di occuparsi dell'azienda, lei glielo vieta? Assolutamente no. E lei è d'accordo? Io penso che bisogna fare delle esperienze fuori, prima di arrivare in azienda. Però no, perché no? Se c'è talento, perché vietare? Mi sembrerebbe illogico, no? No, beh, le famiglie che hanno tanti fondatori, tanti figli, poi diventa complicato. Lì bisogna fare delle gestioni diverse, cioè non è che non debbano entrare in azienda, magari si mette un amministratore delegato e ognuno poi ha le sue funzioni sotto. Certo, oppure sopra, fa l'azionista. Oppure fa l'azionista. Senta, Adriano Olivetti diceva che in azienda nessun dirigente dovrebbe guadagnare 10 volte più del salario minimo. Lei come la vede? Io credo che non sia sbagliato come principio, cioè che ci sia questa sperequazione gigantesca tra... Perché c'è, oggi è pazzesca. Perché oggi c'è, e sicuramente... Pensi delle banche che vanno malissimo quello che guadagnano. Sicuramente questo è un fatto assolutamente vero. Credo peraltro che, non so se il 10 sia il rapporto giusto, però sicuramente ci dovrebbe essere un rapporto. Un rapporto comprensibile. Per la sanità delle aziende. Senta, lei era un avvocato, poi c'è stato un incontro che l'ha cambiato la vita, se ho capito bene, l'incontro professionale con suo padre. Qui no? Sì, è una storia particolare. Noi, mio papà è sempre stato all'estero per lavoro. A un certo punto finalmente va in pensione e cerca questa azienda per la sua pensione. Trova questa azienda, ma quando lui arriva, no, quando l'azienda arriva, lui non è ancora libero dal vecchio lavoro. Perché cosa faceva? Lui era in Pirelli, ha lavorato tutta la vita in Pirelli. Ok. E quindi sono andata io ad occuparmene in prima battuta. Sono entrata affiancando l'amministratore delegato di allora. Sei innamorata? Non ho capito più niente. Più niente. Peraltro, dell'amministratore delegato o dell'azienda? No, direi che siccome era un vecchietto anche col Parkinson dell'azienda. Però devo dire che è un vecchietto che mi ha insegnato tantissimo. Tant'è vero che a un certo punto ha chiesto lui a mio padre, prima che mio padre arrivasse, che lo affiancassi nell'amministrazione dell'azienda. Ecco, dottoressa Mattioli, si dice sempre che l'Italia è il paese più difficile per fare impresa. Ma perché? Perché tu non fai impresa correndo libero, ma corri con delle palle al piede che un carcerato in confronto non ha nulla. È veramente copiato. Io l'ho rivisto riaprendo l'azienda dopo tanti anni di gestione. Le cose che ho dovuto affrontare sono inenarrabili. Solo un eroe, io lo dico sempre, lo può fare, perché gli imprenditori sono veramente diversi. Sì. Senta, ma la riforma della pubblica amministrazione va nella direzione giusta che richiedono le imprese o no? Va nella direzione giusta, ma andiamo, muoviamoci. Mamma, andiamoci. Fate piano che ho fretta. Senta, che cosa servirebbe di più? La semplificazione. Noi abbiamo bisogno di semplificazione, sì, veramente, perché è molto molto complicato. Perché poi perché l'imprenditore italiano va bene nel mondo? Noi non ce lo chiediamo mai, perché va bene in tutto il mondo, non c'è paese perché in cui non sia abituato andato a risolvere i problemi perché complicati. È così, ha una forma mentis diversa, è abituato fin da piccolo. Ufficio complicazione affari semplici in Italia. That's Italy, no? Senta, la Mattioli dicono che è un esempio di azienda 4.0, perché? Perché noi abbiamo introdotto tantissime innovazioni tecnologiche già da tempo. Le parlavo delle stampanti prima, 3D, sì, ma anche le macchine a controllo numerico, per esempio, o i processi con le 5S che facciamo da 10 anni perché arriviamo dalla grande azienda. Questa è stata la grande visione di mio padre, portare l'azienda artigianale il mondo industriale. Ah, certo. E questo ci ha fatto esplodere. Cioè, l'esperienza da Pirelli lo ha stimolato. Ma lui aveva portato anche il TPM in Pirelli quando qui non era niente, l'aveva scoperto in Giappone, 20 anni prima. Quindi, insomma, bravo. Ecco, ma che cosa resta di fatto a mano? Quella cosa artigianale finale, però poi il gioiello alla fine resta moltissimo di fatto a mano. Se lei venisse nella nostra azienda vedrebbe che abbiamo tantissimi orafi che lavorano, incassatori, pulitori. Però è un connubio delle due cose. Sì. Senta, ma imprenditore si nasce o si diventa secondo lei? Secondo me è nel DNA. Uno non lo sa, ma è lì dentro. E a un certo punto spunta. Capita, c'è l'occasione. Un fiorellino. Senta, ma la sua prima esperienza in azienda è stata alla Superga. Ho letto dove lei racconta, ho passato 3 mesi a fare fotocopie. È servito anche quello, no? Imparare a fare con fotocopie ci vuole un po' meno di 3 mesi. Sì. Quindi no, cioè la gavetta, parliamo della gavetta. Beh, la gavetta, guardi, io a tutt'oggi se devo scopare nel mio stand lo faccio, non ho problemi, perché per pulire non ho problemi. Però il problema è che deve essere utile. Allora devi imparare. Sì. E infatti quello che faccio oggi crescere, mi è servito per capire che i miei stagisti in azienda devono lavorare per imparare a crescere. Ma i suoi figli cosa stanno studiando? I miei figli fanno il liceo classico in questo momento. Vabbè, c'è ancora tempo. Ma mia figlia esce quest'anno e vuole fare lettere. Quindi tutto un altro mondo, perché lei legge un sacco, scrive poesie. È un altro mondo. Quindi non ci sarà il problema del maschio e della femmina per prendere le redini dell'azienda. Non credo proprio. C'è un gioiello a cui lei è più legata? Sì, è la mia collana puzzle, che è una collana in cui noi 20 anni fa mettemmo già le madreperle. E ricorderò sempre un grande gioielliere italiano che mi disse: ma hai messo i bottoni nei gioielli? E oggi, se lei va a guardare tutto il mondo orafo, mette la madreperla nei gioielli. Ma è un'idea che le era venuta a lei? Sì, perché volevo avere più possibilità di cambiare i colori nelle mie collezioni. Noi abbiamo gli orecchini che cambiano i colori in funzione del suo umore o dei suoi vestiti. E quindi avevo bisogno di una pietra che cambiasse questi colori. Chi vorrebbe vedere i suoi gioielli addosso oggi? Rania di Giordania. Perché? Perché è una donna chicchissima. Senta, ma alla Merkel invece cosa le regalerebbe? Alla Merkel le regalerei una collana d'oro perché la renderebbe un po' più femminile. E alla May? E alla May un opale, perché loro sanno apprezzare queste pietre che dall'altra parte del mondo invece pensano che portino sfortuna. E alla Brigitte Macron cosa consiglierebbe? Un diamante per suggellare la passione col marito. Insomma, che poi alla fine è il suo vero gioiello. E alla fine è il suo vero gioiello. Beata lei. Grazie. 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS. Tra poco, dopo la pubblicità, una puntata speciale dedicata a una delle case editrici più importanti del nostro paese, la Laterza, nata a Bari il 10 maggio del 1901. Pubblicità.